In realtà non è nata come campagna, è nata in un gruppo Facebook che frequento. Nel momento in cui io avevo già scritto il post che ho fatto sul mio blog sul caso di Asia Argento, avevo già preso una posizione piuttosto netta e quindi tutte le mie compagnucce e compagnucci, perché siamo maschi e femmine, erano già al corrente di quello che stava succedendo e io ho detto: ma se facessimo questa cosa, voi come la vedete? La cosa è stata accolta con grande entusiasmo e siccome alcune di noi fanno parte di redazioni come GayPost e Passionaria.it, siamo riusciti a far uscire un po' la campagna al di fuori di quella che poteva essere la potenza di fuoco del mio blog, del mio profilo Twitter, che insomma che è uno, io sono una. Molte altre persone hanno aderito, ma poi a un certo punto la cosa è scoppiata, cioè proprio scappata di mano, come quando attacchi, quando accendi un fuoco d'artificio, poi scoppi e perdi un dito. Noi non abbiamo perso un dito, però insomma diciamo abbiamo fatto, ha assunto dimensioni che noi assolutamente non ci aspettavamo, io per prima. Quindi è stato un po' un caso, un po' credo che si siano incrociati, si sia incrociato un momento di grande sconforto, grande sofferenza, grande frustrazione da parte di molte persone che per l'ennesima volta si stavano, attraverso il caso di Asia Argento, si vedevano dire: quello che ti è successo non conta nulla, nessuno ti crederà, sei un'esagerata, sei una che l'ha data via per far carriera. Cioè, quindi quello che era successo ad Asia Argento diventava un avvertimento per tutte quelle che non potevano o non volevano parlare di quello che gli era successo. Quando noi abbiamo detto: raccontate quello che vi è successo, tutte le molestie che avete subito, boom, si sono aperte le dighe. Questo infatti da un lato conferma un po' anche le statistiche dell'Istat sulla violenza di genere, cioè almeno una donna su tre ha subito violenza, anche a giudicare dalla reazione appunto dalla molle che sta assumendo questa campagna. E questo soltanto perché noi consideriamo la violenza solo quando è violenza fisica, ma la totalità, e dico la totalità delle donne ha subito qualche forma di molestia, anche solo quello che ti fischi dietro per strada. Quindi è successo letteralmente a tutte di subire qualche forma di sessismo o di violenza nella vita quotidiana. Poi non siamo abituate a considerare come soglia di allarme le micro molestie quotidiane. Quindi quello che ci ha posto fatto in strada non lo consideriamo parte di una cosa che va combattuta perché ci sembra sia normale. Non è normale, è parte della stessa cultura, però quella soglia lì minima lì è toccata a tutte, poi si sale purtroppo e da un certo punto in poi comincia a essere considerato problematico e le persone mai o denunciano o comunque ne parlano, però oltre sotto una certa soglia non ne parliamo perché ci sembra una cosa che purtroppo è connaturata alla nostra vita di femmine. Non esiste una sola donna da nessuna parte del pianeta che non si sia sentita dire: fai attenzione la sera quando torni a casa. Noi abbiamo per scontato che la nostra sia una vita di pericolo. Del resto, come dire, le reazioni alla notizia di Asia Argento che abbiamo visto in questi giorni testimoniano quanto ancora ci sia da fare per, come dire, cambiare culturalmente questa società patriarcale. Rischiavamo veramente, continuiamo a rischiare, che il discorso su queste cose sia dominato da un discorso sulle vittime e non sugli aggressori. Per cui la cosa che va fatta adesso, senza questioni e senza pensarci un momento, è spostare il focus dal processo alle vittime, il perché non denunci, perché non parli, perché non dici, perché non ti ribelli, perché non dici no, spostare il focus immediatamente su chi commette gli abusi, perché basta parlare di quelle che li hanno subiti, che hanno ognuna c'ha le sue ragioni, ognuna c'ha la sua storia. Cominciamo a parlare di quelli che commettono gli abusi, perché lo fanno, che cosa li fa sentire in diritto, che cosa li autorizza e come facciamo a scardinare questo sistema di potere e di privilegio che permette a così tanti uomini di farla franca. Sei fiduciosa che questo possa venire, possa cambiare anche il paradigma? Probabilmente io sono morta, però sì. Secondo me sì, sulla lunga distanza sì, però io non faccio le cose perché voglio vedere un cambiamento domani, non mi attendo che le cose cambino da un giorno all'altro. Se anche solo una persona, dopo quello che è successo in questi giorni, ha cambiato idea, ha visto le cose in modo diverso, ha provato a ripensare il suo sistema di valori, i valori con cui è stata cresciuta, io mi ritengo soddisfatta. Ecco, proprio un'ultimissima battuta sul ruolo che abbiamo facendo questo mestiere, quello appunto dell'informazione. Ovviamente per me, per come sono fatta io, questa mia visione del mondo, questo mio desiderio di un mondo più uguale avvolge tutto il mio lavoro. Non c'è un momento in cui io non ci pensi o questa cosa non conti. Per cui sì, è fondamentale. Secondo me bisogna essere un po' proprio nella vita di tutti i giorni, un pochino più intransigenti nei confronti di un certo tipo di linguaggio e un certo tipo di atteggiamento.